26 maggio 2011. Ho letto molto, di tutto e di più, nel corso della mia vita. Ma un racconto in particolare ricorre continuamente nella mia mente e mi accompagna, una narrazione, che determina le mie parole e le mie azioni. Un scrittrice racconta di una sua amica, il bambino della quale, seppur normale da ogni punto di vista, tuttavia apparteneva a quei ragazzi non veloci nell'apprendimento. Era un bambino buono, dolce, gentile, ma si vedeva quanto fosse per lui difficile imparare alla stessa velocità dei ragazzi della sua età, soprattutto a scuola. Avvenne un giorno che la scuola decise di indire una gara. Ogni classe avrebbe rappresentato una scenetta teatrale e la migliore avrebbe ricevuto un premio. A questa notizia, il bambino era più che entusiasta e non vedeva l'ora di essere scelto per recitare una parte. Troppo felice per poterlo deludere, dicendogli che forse non lo avrebbero scelto. Molto probabilmente non ne avrebbe capito la ragione e se anche l'avesse afferrata, sarebbe rimasto triste, quanto ne era ora entusiasta. Passò un po' di tempo e giunse il giorno in cui fu presa la decisione riguardo a chi, nella classe del bambino, avrebbe partecipato alla scenetta. La scrittrice accompagnò la sua amica all'uscita della scuola ed era profondamente ansiosa di sentire qual era stata la decisione della scuola riguardo al ragazzo. I bambini uscirono come al solito tutti entusiasti, felici e chiassosamente allegri, e così era pure il bambino in questione. La mamma, nel vederlo, domandò con una certa ansia: «E allora, com è andata?» Il bambino, senza scomporsi e con un sorriso smagliante, rispose: «Sono stato scelto per applaudire». La risposta ingenua del bambino produce un mondo di tenerezza, ma da essa pure si può trarre una lezione di vita che, se applicata, non ha eguali, capace di rendere straordinariamente meravigliosa ogni esistenza umana. Scelto per applaudire non è forse così la realtà di molte persone? Non tutti possono essere protagonisti, ma tutti possono far parte di questo grande teatro che è il mondo, tutti possono applaudire. Del resto, se non abbiamo personalmente scelto la nostra sessualità, la nostra statura, il colore della pelle, neppure dipende da noi la scelta della nostra parte nella rappresentazione della scena di questa vita. Chi ha di più, chi ha di meno, tutto si decide nelle assise celesti. Questo potrebbe anche provocare una reazione negativa di stizza, perché si vorrebbe essere diversi, ma contemporaneamente anche tanta rilassatezza, dato che in questo modo non ho la responsabilità di essere all'altezza della scelta che avrei fatta. Siamo come Dio ha voluto, e Lui vuole che siamo quello che siamo. Nulla di più, nulla di meno. Molto probabilmente il racconto del ragazzo mi tocca in modo particolare perché io mi identifico con quel bambino. Sono una persona normale, ma ho anche un lento processo nell'apprendimento, così come non sono mai stato sveglio nella vita. A scuola ero contentissimo quando ero promosso, con appena la sufficienza, mentre nella vita ho dovuto faticare molto di più di altri ragazzi della mia età. Forse anche a causa del fatto di aver vissuto quasi 10 anni della mia vita in un collegio. Oltre a tutto questo, la mia più grande passione e il mio più grande desiderio si rivolgevano alla ricerca di Dio e di ciò che era eterno, trascurando molto visibilmente l'apprendimento di quel savoir-faire così indispensabile nella vita, cioè tutto ciò che riguarda la capacità di gestire i complessi rapporti umani. Le mie intenzioni sono sempre state buone. Non nutrivo nel mio cuore sentimenti di odio o di rancori. Vivevo nel mio mondo, forse irreale, senza comprendere il male che mi circondava, e, nonostante ciò, spesso sono stato accusato di sentimenti negativi. Non sempre chi mi accusava era motivato da intenzioni malvagie, ma ciò avveniva perché non mi muovevo nei canoni della società. La prova era anche data dal fatto che nei processi verbali nei quali mi trovavo coinvolto, davanti alle spiegazioni da me fornite riguardo ai miei comportamenti, la conclusione dei miei accusatori era: «Ma noi pensavamo», l'impressione era, con la conclusione dell'assoluzione, perché il fatto non sussiste. In queste complesse situazioni volevo con tutto il mio cuore essere scelto, per essere parte di questo ingranaggio della vita, ma capivo anche di non essere all'altezza delle mie aspirazioni. Quando ho fatto una reale esperienza di abbandono nelle mani di Cristo, nel maggio del 1964, ho capito gradualmente che il mio compito era quello di applaudire quelli migliori di me. Era di dire una buona parola agli scoraggiati, era quello di sostenere lo stanco, di cercare le persone ferite. Dalla mia smoderata ricerca di essere scelto nella grande scena di questa vita per svolgere un posto importante, sono passato ad una smisurata riconoscenza per il compito che Dio mi ha affidato. Applaudire. Sarà bello avere delle capacità per riuscire, ma applaudire non lo è certo di meno. Quando riesci in un compito, sei soddisfatto e, forse, con te anche altri. Ma quando applaudisci, sei soddisfatto ogni volta che uno riesce, per cui hai molti più motivi per applaudire. Inoltre, se svolgi con certe capacità un compito su questa terra, il tuo ruolo è limitato nel tempo, ma se applaudisci, è un'attività che puoi svolgere anche nell'aldilà, quando ognuno riceverà i suoi premi. Se non sai applaudire ora, difficilmente potrai farlo nell'aldilà. Se ti parlassi del re Davide, di suo figlio Salomone, di Abramo, dei profeti Elia e Eliseo, o dei giudici Sansone e Gedeone, certamente conosceresti già parte delle loro gesta. Ma se parlassi di Purà, sono sicuro di trovarti impreparato e che magari non ne hai neppure mai sentito parlare. Eppure, Purà con la sua presenza è stato un uomo importante, tanto importante, che Gedeone non avrebbe potuto fare quello che ha compiuto. Gedeone è famoso per i suoi 300 uomini che hanno vinto i loro nemici, ma se consideri che con soli 300 soldati, questo giudice ha vinto su 135.000 uomini, allora ti rendi conto del valore dell'impresa e puoi capire perché Gedeone si fosse inizialmente trovato totalmente smarrito davanti al numero dei suoi nemici. Il suo Dio, al quale non sfugge affatto la nostra natura, conoscendo il suo timore, gli dice: «Levati e piomba sull'accampamento, perché io te l'ho dato nelle mani. Ma se hai paura di farlo, scendi all'accampamento con Purà, tuo servo, e udrai quello che dicono. Dopo ciò, le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento». Egli dunque scese con Purà, suo servo, fino agli avamposti dell'accampamento. Giudici 7.9.12. Il servo Purà, molto probabilmente, non aveva le capacità di Gedeone, non era intrepido come il suo comandante, non aveva lo spirito di comando come Gedeone, ma la sua presenza è stata fondamentale perché Gedeone andasse in battaglia e sbaragliasse i 135.000 nemici. Un piccolo sostegno psicologico ha permesso una vittoria strepitosa. Con la sua presenza, Purà diceva a Gedeone: «Vai avanti, sono con te, non sei solo». Ecco di cosa hanno bisogno anche i grandi uomini di Dio, così come tutto coloro che si addentrano in grandi imprese. Qualcuno che li incoraggi, qualcuno che applauda. Spesse volte vale più una parola giusta e buona che mille discorsi moralistici, come sta scritto, «Mad vel piu», quanto è buona una parola detta al tempo giusto, PR 15 e 23. E ancora, una parola detta al tempo giusto sono come dei pomidoro su un vassoio d'argento. PR 25, 11. Un uomo di Dio non è un Superman, non è un autosufficiente, indipendente da tutti e da tutto. Questo è un concetto greco dell'uomo forte, vigoroso, atletico. Un uomo di Dio è colui che conosce i suoi limiti e chiede anche aiuto agli altri. Lo stesso Gesù, il Figlio di Dio, nell'ora più difficile della sua vita, quando il suo sudore divenne simile a grumi di sangue che cadevano a terra, Luca 22.44, disse ai suoi tre discepoli più intimi: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare», Matteo 26.36, stupendo. Disse: «Sedetevi qui», cioè li voleva vicini. Per quanto, se avesse voluto, avrebbe potuto pregare andando da solo sul monte, come aveva fatto altre volte. MT 14.23, 6.46. Io sono stato scelto per applaudire. Forse, anche tu. Anzi, non forse, perché verrà quella volta che avrai voglia di applaudire qualcuno più bravo di te, o che ti ha dato una lezione molto importante nella vita, e se non ti sei preparato per questo importantissimo compito, ne rimarrai deluso. Sì. Perché applaudire non è facile e saper applaudire ancora più difficile. A volte si vorrebbe consolare un cuore, dire parole incoraggianti, ma non si sa cosa dire, quando dirlo, né come dirlo. Ecco perché Giacomo disse: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Giacomo 4.15. Hai notato? Chi sa fare il bene? Questo presuppone che non tutti sappiano fare il bene, come non tutti sanno applaudire. Chi applaude per applaudire deve avere una buona dose di umiltà, deve riconoscersi inferiore agli altri. Del resto, è proprio quanto inteso nell'espressione di Paolo. Ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se stesso. Filippesi 2:3. Per quanto mi riguarda, proprio per questo non faccio fatica ad applaudire, perché ho l'opinione di essere il peggiore dei peccantico testamento, o R.I. Non dico di essere il primo dei peccatori, perché l'apostolo Paolo si è già preso questa precedenza, ma di certo sono il peggiore. Non è retorica o falsa umiltà, come quelli che vorrebbero essere gli ultimi per poi sperare di essere i primi, ma mi ritengo il peggiore dei peccatori per vari motivi. Quando accettai il Vangelo, i miei fratelli in fede mi dissero che mi avevano raccolto ai margini della società. Con tutti i limiti che possiedo, le persone scambiano il mio amore per odio. Le mie intenzioni il più delle volte sono fraintese e creano problematiche, per questo mi hanno anche detto che mi muovo come un elefante in una cristalliera. Tutto questo potrebbe anche demotivarmi, ma non ritenendo responsabile nessun altro al di fuori di me, continuo ad applaudire amici e avversari, perché una cosa bella rimane sempre bella ed è degna di essere apprezzata. Ho sempre apprezzato chi ha dei doni, ho sempre cercato, fin dalla pubertà, i veri valori e ciò che è immortale. Mi piacciono l'arte, la cultura, la filosofia, la psicologia e tutto quello che aumenta la vera e giusta conoscenza. Mi piace tutto, con il desiderio di possedere tutto, e con questa inclinazione datami dalla nascita, quando sarò alla presenza di Cristo, il mio grande appagamento sarà quello di stare ai suoi piedi e ascoltarlo, vederlo, ammirarlo per quello che è. E allora le mani del mio cuore continueranno ad applaudire, applaudire, appagato eternamente per quello che vedo, che sento e faccio. Ellero